GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Meteo, brusco cambio in arrivo in poche ore, dalle temperature miti alle precipitazioni e alla discesa dei termometri. Dadi alimentari e lozioni per capelli contraffatti, sequestrati nel porto di Trieste da Fiamme Gialle Dogane, erano arrivati dalla Turchia. Gli allievi della scuola media Corsi faranno lezione in Porto Vecchio a Trieste, pronto il trasferimento temporaneo. Giro del mondo in crociera, la partenza domani da Trieste, in 4 mesi e mezzo toccherà 52 destinazioni in 34 paesi. Fuochi epifanici tra rinvii per il maltempo e conferme, ma arrivano anche i falò virtuali. Scherma, Coppa del Mondo Under 20 a Udine, in corso le prove a squadre della spada. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Apriamo con la situazione del tempo, perché si sta preparando una brusca svolta con l'arrivo di una perturbazione che interesserà la nostra regione a partire da questa sera fino alle prime ore di domenica. Come sentiremo, porterà precipitazioni anche abbondanti in alcune zone e un sensibile calo delle temperature. Al momento sul Friuli Venezia Giulia il cielo da poco nuvoloso ha coperto, queste le temperature delle 11. A Trieste 13 gradi e mezzo, a Udine e a Gorizia 11, a Pordenone 9 e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo e a Tarvisio 3 gradi, a Sappada meno 1, a Forni di Sopra 2 gradi positivi, a Piancavallo 1 grado, sul Lussari 0, sullo Zoncolan meno 1 e 5 decimi, sulla costa grado 13 e mezzo, a Lignano 11 gradi e 5 decimi. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale prevede per le prossime ore probabili precipitazioni estese a partire da ovest, in genere appunto moderate. Quota neve inizialmente dai 1.000-1.300 metri sulle Alpi, dai 1.300-1.600 metri sulle Prealpi. In serata soffierà scirocco moderato sulla costa, ma il meteo è destinato a peggiorare nel passaggio delle ore notturne. Le previsioni indicano piogge anche intense in alcune aree, in aggiunta alla neve anche per la giornata di domani, a cui seguirà il vento di domenica e il progressivo abbassarsi della temperatura. Ne abbiamo parlato con l'esperto dell'ARPA, Gabriele Fasano. Nella giornata di sabato avremo tempo perturbato a causa di una depressione che dall'Atlantico arriverà sul Mediterraneo e avremo cielo coperto con precipitazioni estese su tutta la regione, in genere intense. Pioverà un po' meno a Trieste, mentre nella zona pedemontana, quindi tra alta pianura e prealpi, le piogge potranno essere anche molto intense. Per quanto riguarda la neve, inizialmente la quota neve sarà attorno ai 1.100-1.300 metri sulle Alpi, a quote un po' più alte sulle prealpi. In giornata la neve potrà scendere fino a circa 1.000-1.200 metri sulle Alpi, anche fino a Fondovalle nel pomeriggio nel Tarvisiano, quindi fino a 700 metri. Sulle Prealpi invece rimarrà a quote più alte, quindi direi attorno ai 1.200-1.400 metri circa. D'alta quota la nevicata sarà intensa. Dalla serata inizierà anche a soffiare bora sostenuta, soprattutto Trieste, mentre vento più moderato da nord-est sulla zona della pianura. La giornata di domenica vedrà cielo coperto con precipitazioni che tendranno a esaurirsi probabilmente tra notte e mattino. Soffierà vento moderato da nord-est in pianura, bora sostenuta in quota a Trieste sul Carso. Le temperature si abbasseranno? Le temperature inizieranno ad abbassarsi soprattutto da domenica, in particolare da domenica sera. Quindi l'inizio della settimana prossima, lunedì e martedì, saranno due giornate più fredde. La procura di Pordenone, competente per il territorio, ha aperto un fascicolo su un grave episodio accaduto la notte scorsa a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, dove un uomo ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo al primo piano di un'abitazione, lanciandosi a propria volta nel vuoto nel tentativo di togliersi la vita. Stiamo cercando di capire quale sia la situazione mentale dell'autore dell'azione, ha detto questa mattina il procuratore facente funzione di Pordenone, Maria Grazia Zaina. L'uomo, padre separato, che in questi giorni aveva con sé la bambina, è rimasto praticamente illeso ed è stato arrestato per tentato omicidio. La piccola è gravissima, ma ci sono speranze di un decorso positivo. Doppio sequestro di merci contraffatte nel porto di Trieste da parte della Guardia di Finanza e dei funzionari della sezione antifrode dell'ufficio l'ufficio delle dogane. Si tratta di dadi alimentari e lozioni per capelli, prodotti arrivati nello scalo a bordo di motonavi turche destinati ad aziende comunitarie dei rispettivi settori. I dadi, oltre 100.000 pezzi, erano vestiti, per così dire, con confezioni che riproducevano quelle di uno dei più noti marchi a livello mondiale. Informato, il titolare ha confermato la non genuinità e non ha escluso il rischio per la salute dei consumatori. Anche le perizie sulle lozioni hanno certificato la contraffazione, nonostante le confezioni richiamassero quelle di un famoso brand internazionale. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle e le dogane avevano sequestrato circa 11.000 integratori alimentari nei quali era stata accertata la presenza di sildenafil, il principio attivo del Viagra. E ora passiamo alla questione dei minori non accompagnati che da Udine erano stati trasferiti a Cavazzo Carnico. I problemi non sono finiti con questo spostamento. Prende una sedia e si piazza davanti all'ex albergo Olivo il sindaco di Cavazzo Carnico, Gianni Borghi, in protesta contro una comunità per minori stranieri non accompagnati, in prima accoglienza, che si è insediata nel vecchio hotel in pieno centro paese il 20 novembre scorso, all'improvviso, quando da Udine sono stati trasferiti alcuni ragazzi a seguito di una determina emergenziale del comune del capoluogo friulano. Fino al 31 dicembre, in teoria, ma la loro permanenza è stata prolungata al 31 gennaio. La comunità di Cavazzo Carnico si è incontrata il 30 dicembre scorso in assemblea cittadina per denunciare alcuni episodi di microcriminalità che si sono susseguiti da allora. Un passante ci dice di aver denunciato ai carabinieri che alcuni ragazzi sono entrati nel cortile di casa sua a rovistare nella macchina della figlia. Per domani la cooperativa Oltre i Confini 2.0, che gestisce la comunità, ha invitato i residenti a passare dall'ex hotel e trascorrere insieme la Befana, ma il sindaco Borghi declina l'invito e denuncia la mancanza di comunicazione istituzionale da parte di Comune di Udine e Prefettura riguardo all'installazione in paese della comunità. In municipio c'è una richiesta di qualche mese fa di apertura però di un'altra tipologia di comunità per minori stranieri non accompagnati, una comunità di seconda accoglienza per seguire ragazzi che non si trattengono solo temporaneamente sul territorio, ma con progetti volti all'integrazione. L'iter amministrativo per questo tipo di struttura dovrebbe concludersi a fine marzo. Nel frattempo a Cavazzo Carnico, in attesa che termini l'esperienza della prima accoglienza emergenziale, 13 ragazzi al momento presenti, per lo più egiziani, rimane una raccolta firma di protesta e l'amarezza da parte del primo cittadino e di alcuni residenti di non essere stati coinvolti nelle decisioni che hanno un impatto sulla quotidianità della loro comunità. Cavazzo Carnico, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, poco dopo la mezzanotte i pompieri di Tolmezzo sono intervenuti a Villa Santina per il principio di incendio di un camion compattatore in cui avevano preso fuoco i materiali riposti nel cassone. Le operazioni si sono concluse intorno alle 6, ancora in fase di accertamento le cause del rogo che non ha coinvolto persone sul posto, anche i carabinieri. Daniele Pittioni è il nuovo direttore sanitario dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Assumerà l'incarico dal 22 gennaio per la durata di 5 anni. Vanta una lunga esperienza come dirigente medico di primo livello nell'area della sanità pubblica, con specializzazione in igiene e medicina preventiva ad orientamento ospedaliero. Dal 2022 Pittioni ricopriva la carica di direttore del Dipartimento Rischio Clinico e direttore della struttura complessa Direzione Medica Gorizia e Monfalcone. A Trieste il trasferimento di una scuola in Porto Vecchio. Si tratta di un trasloco per un periodo limitato, anche se non brevissimo. Anno nuovo, sede nuova, seppur provvisoria. Da lunedì 309 studenti della scuola secondaria di primo grado Guido Corsi saranno ospitati nella nuova sede al magazzino 1 del Molo 4 a Trieste. 14 aule, 13 ordinarie e una per il sostegno, una palestra da 123 metri quadrati, sala insegnanti e due uffici amministrative, tutte con una vista mozzafiato. Una spesa complessiva di 627.000 euro per consentire la continuità didattica degli allievi. Nella sede della scuola Corsi, così da lunedì potranno cominciare i lavori per l'adeguamento sismico dell'immobile e delle normative antincendio, lavori incompatibili con la presenza dei ragazzi della durata di 24 mesi. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste. In questo momento la città sta correndo così proprio perché abbiamo questa collaborazione con tutti, con l'autorità portuale, con la regione, con tutti, e naturalmente ho ringraziato oggi Mariani perché ci ha fatto questo regalo veramente, perché i bambini con tutte queste aule, 320 bambini sul mare, beh, è un bel regalo per le famiglie e per i bambini. Ma non è tutti i genitori che accompagneranno e preleveranno i bambini in auto avranno un ticket gratuito per accedere alla durata di 15 minuti, oltre a un percorso pedonale creato ad hoc. Trieste, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Circa 2.000 passeggeri parteciperanno alla crociera del Giro del Mondo a bordo della Costa Deliziosa che partirà domani da Trieste. In circa 4 mesi e mezzo gli ospiti a bordo visiteranno 52 destinazioni diverse di 34 paesi sparsi in 5 continenti, attraversando 3 oceani e navigando sempre verso ovest. Le prime tappe saranno Catania, Napoli e Savona, dove la nave imbarcherà altri viaggiatori già prenotati. Costa Deliziosa toccherà Francia, Spagna, Marocco, Isole Canarie, per poi passare il canale di Panama e andare alla scoperta di Ecuador, Cile, Perù, Isola di Pasqua. Da lì attraverserà il Pacifico toccando la Polinesia per raggiungere l'Australia, si dirigerà verso nord in Giappone e Corea del Sud per poi fare rotta ancora verso ovest visitando Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania e fare rientro in Italia, capolinea al porto di Venezia. Il prezzo base della crociera intorno al mondo è di circa 6.300 euro a persona. Sempre da Trieste partirà anche la prossima edizione del Giro del Mondo che per la prima volta comincerà a dicembre. Prenotazioni già aperte. Le previsioni meteo avverse hanno indotto alcuni organizzatori a rimandare i tradizionali falò epifanici in diverse località della regione, confermato però il Pignarul più famoso, quello di Tarcento. Sull'origine dei fuochi epifanici si è discusso questa mattina nella nostra trasmissione televisiva Buongiorno Regione con l'antropologo Stefano Morandini. Il fuoco è un elemento che ritroviamo nella tradizione popolare di diverse comunità ed è presente in diversi momenti dell'anno. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia le caratteristiche dei riti legati alla luce e al fuoco si sovrappongono. L'Atlante linguistico etnografico friulano, redatto negli anni 50 da numerosi studiosi, ne traccia 3 tipologie. Quelli dell'Epifania del 5-6 gennaio, diffusi nella pianura, fino alla fascia prealpina, con alcune poche isolate propaggini nella Carnia. La seconda tipologia, i fuochi di San Giovanni Battista, 24 giugno, di San Pietro, 29 giugno, con date che vanno dalla vigilia del primo santo fino alla festa del secondo. E naturalmente più diffusi naturalmente nell'area, quella che era l'area dell'ex confine con la Jugoslavia, naturalmente, adesso Slovenia, le valli della Tisone, nelle valli del Torre, è un'area, come dire, un margine linguistico in buona sostanza che vedeva anche l'uso di cidulis, appunto, e questa è la terza tipologia che riguarda la Carnia e che non sono naturalmente solo rotelle infocate, ma sono anche lancio di fuoco sotto varie forme, insomma, e tradizionalmente riguarda la Carnia, ma anche il Canale del Ferro. L'antropologo Stefano Morandini sostiene che è difficile capire l'origine dei fuochi epifanici in un territorio complesso come il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una buona mappatura di quali sono i nomi sostanzialmente, i modi anche a volte, perché il questionario si prestava anche a raccogliere i dati etnografici in maniera molto discorsiva. E naturalmente poi dagli anni 70 in poi è cambiato anche il Friuli sostanzialmente, quindi è cambiata la modalità, sono cambiati i modi di fare tradizione, di vivere questo aspetto del fuoco, ma siamo qui a parlarne, quindi vuol dire che è ancora attuale. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono stati consegnati ieri sera a Tarcento i premi Epifania, edizione numero 69. Sono stati conferiti a Silvio Brusaferro, Sante Chiarcosso e all'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani. Salute, solidarietà, musica. Il premio Epifania 2024 ha incoronato quest'anno i friulani che hanno esportato fuori dai confini della regione le eccellenze in questi campi. Ad essere premiati dunque la tenacia e capacità delle nuove generazioni dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, un esempio per i coetanei di come l'impegno porti risultati importanti. Sante Chiarcosso dell'omonima Autotrasporti ha ricevuto il premio per l'attività di Help Haiti, che aiuta i bambini nati nell'isola del Mar dei Caraibi tra adozione a distanza e progetti per il sostentamento e la scolarizzazione. E poi la salute con il cavalierato assegnato dal premio Tarcentino a Silvio Brusaferro, il friulano protagonista della lotta alla pandemia. Una cosa che abbiamo imparato è che le sfide globali sono globali. e siamo cittadini del mondo. Non è semplicemente un modo di dire, ma fenomeni come quelli che abbiamo vissuti, come il cambiamento climatico, per citarne un altro, sono sfide che dobbiamo affrontare assieme. Dal generale al particolare, il medico friulano ha spiegato come sia necessario cominciare dai piccoli intrecci per progredire nelle grandi sfide. E anche le fragilità sono sostenibili per il nostro Servizio Sanitario Nazionale se c'è una rete sociale, perché non ci sarà nessun servizio che può coprire tutto quello che serve a una persona fragile. Certo, può garantire molto, deve garantire molto, ma se non c'è una rete sociale, se non c'è un vicinato, se non c'è quell'attenzione, quel darsi una mano, no? Dirsi una mano in qualche modo, non è sostenibile e soprattutto non creiamo le condizioni per crescere. Tarcento, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Casometo dunque è stato rinviato al 13 gennaio il Pignarul di Baldasseria Alta, Udine, oltre a quelli di Dignano, Leipacco, Godia, San Daniele, Tavagnacco e Lignano. Annullata la cabossa di Aquileia, ancora in agenda invece il famoso Pignarul di Tarcento, lo dicevamo, oltre a quello di domani di Remanzacco e a quelli di domenica di Pasian di Prato e Colloredo. Ancora incerto invece lo svolgimento del Pane Vin di Pordenone e l'iniziativa di Pagnacco. Confermata la manifestazione di Ialmicco, così come il Seimo di Turriaco, la Seima di Vermegliano e la Foghera di Latisana. In agenda per stasera anche la Femmenata di Paularo in Carnia per bruciare la strega come augurio per l'anno nuovo. A Versuta di Casarsa la foghera sarà abbinata a una lucciolata alle 19.30, lucciolata a sostegno della Via di Natale, l'associazione di supporto ai pazienti in cura al CRO di Aviano e alle loro famiglie, e la stessa raccolta benefica in programma a Sesto Arregna alle 20.30, dove è previsto uno spettacolo pirotecnico al Lago Packer. A Sacile, tempo permettendo, il fuoco sarà sostituito da uno spettacolo di luci in allestimento dietro la chiesa di Cavolano. E anche a Morsano il falò è stato sostituito da uno spettacolo di luci con avvio alle 18.30 con una fiaccolata. Ne abbiamo parlato con il sindaco Giuseppe Mascherin. Questa è stata una scelta condivisa dalla nostra Proloco e dalla parrocchia di Morsano, che come da tradizione organizzano questi fuochi epifanici che da noi vengono chiamate foghere, poi hanno tanti nomi in Friuli, dal Pignarul, Arborate, Pan e Vin, eccetera. Tradizionalmente questo prevedeva un fuoco dove venivano bruciati sterpaglie, le canne del mais. Oggi l'organizzazione di questi eventi, di questi fuochi, creano anche dei problemi perché possono portare a un innalzamento dell'inquinamento nell'aria e quindi ci sono tutta una serie di norme, di restrizioni correttissime per l'organizzazione di questi fuochi. Noi abbiamo voluto mantenere la tradizione con qualcosa di innovativo. Sostituiamo il fuoco con un gioco di luci, uno spettacolo di luci. La pagina degli spettacoli, stasera a Trieste il concerto dell'Orchestra Giovanile Europea, formazione fondata 30 anni fa dal direttore violinista Igor Coretti-Curet, che seleziona e dirige i ragazzi fra gli 11 e i 19 anni che la compongono. Dopo quella di ieri sera a Zagabria, le due precedenti, sempre in area mitteleuropea, quella di stasera è la quarta data della tournée della ESIO, la European Spirit of Youth Orchestra. L'appuntamento è alle 18.30, il titolo è United Together. A Proda Gorizia, al Teatro Verdi, il Lago dei Cigni di Tchaikovsky nel riallestimento della Compagnia del Balletto di Roma. Lo spettacolo andrà in scena alle 20.45 e sarà preceduto alle 18 da un approfondimento a ridotto macedonio. Passiamo allo sport, iniziando dal biathlon, primo impegno dell'anno nuovo per Lisa Vitozzi, che a Oberhof in Germania alle 14.30 sarà al via della gara sprint di Coppa del Mondo. In classifica generale la Sappadina è quarta con un ritardo di 41 punti dalla francese Justine Brésard, attuale leader. Vitozzi partirà con il pettorale 24, la pista di Oberhof è una di quelle che predilige. Nella stagione scorsa vi ha conquistato 4 medaglie mondiali e nel 2019 vi ottenne il primo successo in Coppa del Mondo. Le condizioni meteo sono però complicate, anche nelle ultime ore è piovuto e la gara maschile, che avrebbe dovuto svolgersi ieri, è stata posticipata ad oggi, concludendosi poco fa. Domani in programma l'inseguimento, domenica domenica le staffette. Scherma, seconda giornata della tappa udinese della Coppa del Mondo Under 20 che si svolge al quartiere fieristico di Tavagnacco. Oggi in programma la prova squadre nei sedicesimi prova squadre di spada. Nei sedicesimi di finale l'Italia ha battuto la Bulgaria 45-35 e tra poco affronterà la Cina per la prima volta a Udine. Cina che a sua volta ha vinto di un solo punto con l'Estonia. Della formazione azzurra fa parte Matteo Galassi che ieri ha vinto l'oro individuale. Nel torneo femminile l'Italia ha battuto la Spagna 36-25 e più tardi affronterà la Svezia che ha superato la Colombia. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Walter Vidonis. La prossima edizione del GR regionale è alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.